Abbiamo lanciato questo appello perché ovviamente dentro un'azione sindacale che è partita dal livello nazionale, è passata per la regione Emilia Romagna, abbiamo ritenuto che anche la città metropolitana nella figura del sindaco fosse investito di questo tema, essendo che a livello di Parlamento sta percorrendo il suo iter un disegno di legge che, se non modificato, rischia di essere estremamente pericoloso per il settore degli appalti e dei subappalti. Quali sono i nodi critici di questo disegno di legge? Praticamente nel disegno di legge si sta facendo carta straccia di uno dei punti più importanti degli accordi che abbiamo fatto in tutti questi anni, sia a livello di città metropolitana che nel patto con la regione, per quanto riguarda la cosiddetta clausola sociale, che altro non è che la garanzia che appunto i lavoratori e le lavoratrici che si trovano coinvolte dentro a un passaggio di appalto possono avere in questo passaggio la garanzia dei loro diritti e dei loro trattamenti. Se si fa carta straccia della clausola sociale, ovviamente si dà mano libera a chiunque di poter entrare in un bando di appalto e di poter fare il massimo ribasso, che è ovviamente ciò che bisogna invece combattere ed evitare, anche perché il massimo ribasso, come sappiamo, laddove poi si praticano questi usi e costumi, porta inevitabilmente all'illegalità e cioè all'ingresso anche di interessi di carattere mafioso. Clausola sociale era quella norma che sostanzialmente calmierava un po' l'impatto delle esternalizzazioni, no? Cioè garantendo una continuità occupazionale a lavoratrici e lavoratori. Esatto, è quella norma che dà, una barriera, tra virgolette, di garanzia in più per coloro che sono sottoposti a un passaggio, perché magari lavoravano prima per una società che era in appalto e che perde l'appalto a favore di un'altra che lo vince, e in questo passaggio si deve garantire l'occupazione, si debbono garantire i trattamenti e l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dai sindacati maggiormente, che sono tutti elementi che servono appunto ad impedire che si crei una concorrenza sleale e che soprattutto si inserisca all'interno degli appalti e dei subappalti, si possa annidare la speculazione mafiosa e quindi l'illegalità, il lavaggio del denaro sporco, passaggi che, come abbiamo visto anche nel processo Emilia, il nostro è un territorio che non è immune, quindi noi abbiamo bisogno di mantenere molto alta l'attenzione e la guardia su questi aspetti. Vi siete spiegati perché legislatore vorrebbe procedere in questo senso? Ma c'è un'interpretazione che viene fatta delle normative europee che, a seconda di uno da come la legge, da come la sviluppa, porterebbe a questa logica che il libero mercato richiederebbe di togliere tutti i lacci e lacciuoli. Noi invece pensiamo che il libero mercato di per sé combini dei guai se non ci sono delle regole che appunto lo definiscono. Il libero mercato rischia di essere un disastro. Questo si è visto in tutti questi anni in cui le esternalizzazioni, i decentramenti, gli appalti e i subappalti sono stati all'ordine del giorno e hanno rappresentato disastri enormi. Basta solo pensare nel settore della logistica a quello che è successo, per esempio, anche sul tema della sicurezza. Non è un caso che gli infortuni aumentano perché non ci sono più controlli, non ci sono aziende che interagiscono in maniera regolare nella competizione e quindi tutto viene tagliato in nome per conto del libero mercato e quindi anche la vita umana, e questo non è assolutamente accettabile. Su tutto il territorio sappiamo che stanno arrivando risorse del PNRR per progetti che però hanno necessità di essere svolti in fretta. I progetti, appunto, i soldi del PNRR, in questo può influire in un qualche modo per cercare di togliere quelle garanzie, quei vincoli per fare in fretta? Dunque, è chiaro che bisogna stare molto attenti perché le pressioni in questo senso sono molto forti, però noi per esempio ieri abbiamo avuto un primo incontro con la cosiddetta cabina di regia della città metropolitana, dove abbiamo sostanzialmente messo un po' in fila quelli che sono i primi bandi, quindi i primi interventi attraverso l'uso anche dei soldi europei, e abbiamo appunto chiesto che su ognuno di questi si vada sostanzialmente ad applicare le intese dei patti e dei protocolli di appalto che abbiamo messo in campo, proprio perché siamo certi che da un lato non è che creano un impedimento dei tempi, bisognerà lavorare più che altro sulla burocrazia degli uffici tecnici, ma questo credo che sia una cosa che la città metropolitana è in grado di poter agire. Dopodiché riusciamo a fare in modo che i tempi siano rispettati e che nel rispetto dei tempi si rispettino chi lavora, si rispettano quindi i diritti di chi lavora e i trattamenti di chi lavora.